Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali, benvenuti in questa nuova collocazione di palinsesto per essere e avere. Speriamo di aver agganciato fin da subito i nostri ascoltatori affezionati del sabato e di trovarne di nuovi per la domenica. In che misura l'innovazione è legata alle intuizioni dei singoli e quanto invece allo scambio di informazioni, di piccole intuizioni tra le persone? La storia delle scoperte scientifiche racconta una realtà diversa da quella che si è soliti trasmettere e ci offre molti spunti di riflessione per il futuro che ci stiamo costruendo fin da ora. Ne parleremo nel primo dei nostri approfondimenti grazie al contributo dei provocatori che abbiamo incontrato a margine del World Business Forum, l'evento che anche in questa sua 11ª edizione italiana ha riunito i maggiori leader e innovatori del nostro tempo. La rivoluzione digitale cambia anche gli oggetti di consumo più tradizionali come i giocattoli che incontrano il crowdsourcing, l'internet delle cose e la stampa 3D. Sono i Lively Kids i protagonisti del focus sui trend di questa settimana, i bambini tra i 4 e gli 8 anni che ispirano nuove modalità di gioco e di apprendimento. Riflessione finale dedicata invece al ritorno al territorio come valore strategico per le aziende del Made in Italy. Non ha fatto domanda per diventare assistente di uno dei suoi professori? Sì. E nessuno lo ha assunto? No. Perché? Perché loro ritenevano che io non fossi dotato di una mente scientifica. E che cos'è, secondo lei, una mente scientifica? È una mente che dubita. Quindi una mente che cerca, che scopre e che dimostra. Ha fatto delle ricerche personalmente? Sì. Oggetto? L'universo. Ah, niente di meno. Quali ragioni particolari l'hanno spinta a questa ricerca? A dire il vero, mi pongo assai raramente domande su me stesso, ma devo dire che l'esistenza mi sembra spaventosamente povera. La vita quotidiana è triste e sprovvista di ogni minimo interesse senza quel bisogno di scoprire tutti i segreti di questo mondo che Dio tenta di tenerci nascosti. Lei crede in Dio? Oh, in un Dio incarnato, certamente no. Ma credo in un'armonia, in un ordine universale. E arrivo anche a pensare che i ricercatori siano gli unici a possedere uno spirito religioso. Parole queste di Albert Einstein, che così raccontava la sua spinta verso la ricerca delle leggi dell'universo. Ragionare sull'innovazione, raccontarla, svelando le connessioni nascoste, significa contribuire all'innovazione stessa, unendo i puntini, come ci piace dire. Abbiamo avuto l'occasione di farlo a Evolutionary, evento organizzato dall'agenzia media PhD Italia nell'ambito del World Business Forum che si è tenuto nei giorni scorsi a Milano. Steven Johnson, teorico dei media, leader di pensiero nell'approccio interdisciplinare e collaborativo all'innovazione, scelto dalla rivista Prospect come uno dei top 10 brains del futuro digitale, ci ha parlato dell'Hummingbird Effect, l'effetto colibrì, la sua teoria sulle conseguenze imprevedibili delle innovazioni e poi della loro incubazione e di quelle che influenzeranno il futuro prossimo venturo. Con una premessa, la rete, la dimensione social e collaborativa ha modificato anche gli spazi fisici. Lo ha raccontato lo stesso Johnson al microfono di Adriano Palazzolo. Non dovremmo sottovalutare l'importanza dei luoghi fisici, quelli del mondo reale. 20 anni fa i futuristi dicevano che le città sarebbero scomparse a causa di internet e che la gente avrebbe cominciato a vivere in maniera isolata facendo tutto online. È successo l'esatto opposto. Paradossalmente, internet rende le città più divertenti, perché puoi scoprire in maniera più facile tutto quello che accade. E penso che uno spazio fisico sia importante per l'innovazione tanto quanto il web. Qual è lo step successivo della connettività? Cosa pensi ci aspetta nel futuro? Quello che vogliamo fare è migliorare gli strumenti per delle connessioni sempre più sorprendenti. Noi non siamo collegati solo a persone completamente uguali a noi. E penso che il web sia stata, in generale, una forza enorme per differenziare le esperienze delle persone in tutto il mondo. Ma credo che si voglia ancora lavorare sugli strumenti utili a perfezionare questo aspetto. Ci stavo pensando ieri notte. Quando vedi i feed delle notizie su Facebook, ad esempio, beh, dare più potere al modo in cui queste notizie vengono selezionate, dare alle persone il potere sulle esperienze che la scelta dei feed può dare, credo sia una cosa molto importante da fare. In una società frenetica e bombardata di stimoli e informazioni come la nostra, credi sia ancora possibile la lenta incubazione di cui parli tu come strumento necessario al fine di elaborare un'idea? La cosa bella della lenta incubazione è che puoi lasciarti ispirare dalle cose più casuali. Nel mio libro c'è una teoria che chiamo l'effetto colibrì. Mentre scrivevo nel giardino di casa mia, sentivo questi colibrì e mi sono messo a pensare, qual è la storia dei colibrì? Allora sono andato a cercarli su Wikipedia e da lì sono finito su un articolo e poi su altri. Mentre lavoravo al nuovo libro, contemporaneamente lavoravo su questa lenta incubazione sulla storia dell'evoluzione dei colibrì. E un giorno mi sono detto, questa è davvero una buona metafora per spiegare quello di cui sto scrivendo. È stato così facile. Non sarei mai andato in biblioteca per prendere un libro sui colibrì. Non avevo abbastanza interesse per farlo, ma con uno smartphone avevo tutta la conoscenza del mondo a disposizione nel palmo della mia mano. Quali sono le grandi cose che dobbiamo aspettarci nei prossimi anni? Sono davvero molto interessato alle fonti di energia, alla rete delle energie rinnovabili. L'uso dei pannelli solari sta crescendo a un livello incredibile adesso, e tutto quello che questo può significare per l'automobile. L'intero settore dell'automobile è rimasto più o meno identico per 80-90 anni, ma adesso viene rimesso tutto in discussione. Tecnologia Tesla, auto elettriche, car sharing. L'architettura delle città è stata pensata per un certo tipo di automobili, e quando queste cambieranno, sarà molto interessante. Credi ancora che il progresso tecnologico di internet, TV e dei videogiochi compiuto in questi 10 anni abbia portato questi mezzi ad essere ancora più impegnativi e che la loro difficoltà ci rende più intelligenti? C'è una tendenza nel mondo dell'intrattenimento verso una maggiore complessità e una maggiore partecipazione. Nel senso che devi pensare di più, devi fare più attenzione, ci sono più variabili. Ci sono sempre più persone attive su internet in una forma o nell'altra, rispetto a quelle che rimangono passivamente a guardare la TV. La domanda è, questo ci rende ancora più intelligenti? Sicuramente i giovani nati con queste tecnologie già a portata di mano partecipano di più. C'è una generazione più intraprendente. La previsione che cercavo di fare ai tempi su questa generazione è che oggi è molto più impegnata nei confronti del mondo e più consapevole. I giovani non se ne stanno lì seduti a sentirsi dire cosa fare. Se sono più intelligenti? Ci sto ancora riflettendo. Davvero, non lo so. Ecco invece le previsioni per il futuro di Jason Silva, media artist, futurologo e filosofo visionario, autore di una serie di video virali che hanno raccolto milioni di visualizzazioni. Video che condensano in pochi minuti informazioni scientifiche, elementi dell'immaginario collettivo ed estetica digitale. Li trovate sulla nostra pagina Facebook. Sentiamolo sempre al microfono di Adriano Palazzolo. I think that what we're going to see is three overlapping revolutions. Ray Kurzweil refers. Assisteremo a 3 rivoluzioni, il cui acronimo è GNR, genetica, nanotecnologia e robotica. Con la robotica arriveremo a creare sistemi di intelligenza artificiale sempre più complessi, probabilmente anche cervelli non biologici che riusciranno a pensare, e di dimensioni infinitamente più piccole rispetto a quelli umani. La rivoluzione biotecnologica ha come scopo quello di trasformare la biologia in software. Con la nanotecnologia invece saremo in grado di manipolare gli atomi del mondo fisico e schematizzare questi atomi nel mondo digitale. Quindi, allo stesso modo in cui il mondo digitale non ha limiti, presto anche il mondo fisico non avrà più confini, se non quelli imposti dalla nostra immaginazione. Queste rivoluzioni trasformeranno il genere umano e ci arricchiranno in modi inimmaginabili. La distinzione tra noi e il mondo si assottiglierà sempre di più, perché il contextual computing e l'internet delle cose faranno in modo che il mondo risponda in maniera sempre più immediata alle nostre necessità. Quanto è importante il concetto di sharing culture? Cerchiamo sempre di creare open space dove può avvenire l'innovazione, dove le idee possono fare l'amore, un'ecologia della mente, dei pensieri, una foresta pluviale per la mente. Le città si stanno attrezzando per diventare spazi simili. Dobbiamo solo continuare a creare questi spazi speciali, queste zone particolari, affinché la creatività possa esprimersi liberamente. Si è parlato anche di sharing economy, l'economia della condivisione di risorse, prodotti e servizi, il settore che meglio recepisce in questo momento le nuove istanze di vita e di consumo. Una piattaforma di innovazione ma dalle forti ricadute sociali. Prodotti, servizi, modelli che fanno leva sulle nuove aspettative del cittadino consumatore. Utilità e creazione di un valore di scambio tra noi e gli altri. Una piattaforma che può rappresentare un'occasione per molti brand e aziende, come ci conferma Vittorio Bucci, che è il Managing Director di PhD Italia. La sharing economy è una grandissima occasione per le aziende perché ci lascia due messaggi. Il primo è sostanzialmente l'asset principale di queste piattaforme, cioè la valorizzazione della componente sociale e del potere dei consumatori, ma io amo chiamarli e definirli giustamente persone. E l'altro è ciò che possiamo capire analizzando le loro politiche di marketing, il loro modo di fare impresa, un'impresa leggera, veloce, flessibile, liquida, che dovremmo importare all'interno delle nostre organizzazioni. Quindi un'occasione non solo di comunicazione, anche di business. Assolutamente sì, è soprattutto un'occasione di business. Non dobbiamo sempre schierarci tra apocalittici e integrati, dobbiamo riuscire a trovare l'equilibrio fra un modello che sta senza dubbio emergendo e che si vorrà non come antagonista, ma di sicuro come un modello collaterale rispetto al modello attuale, al modello capitalista a cui siamo abituati, in cui viviamo sostanzialmente. È solo uno tra i tanti modelli. Ci insegna tante cose, dobbiamo imparare a capirlo e a valorizzarlo ove possibile, sia in termini di business che in termini, perché no, sociali. Yeah, we got three tickets to the Brand Van concert happening this Monday night at the Pacific Palisades. You can all go in if you want to answer a couple of questions. Mainly, what is Todd's favorite cheese? Jackie just called up and said it was a form of rock floor. Let's see about that. Give us a ring ding. Beautiful day. Yeah, Todd, this is Liquid. Ring a ding a ding. I want those three Brand Van tickets, man. What do you think? Adesso cambiamo argomento, arriva per la prima volta in Italia, ad importarla è un sito di e-commerce nella propria app dedicata, la funzione ricerca immagine che permette di scattare una fotografia ad un capo di abbigliamento oppure un accessorio per cercare lo stesso prodotto o i prodotti simili disponibili, una sorta di Shazam dei vestiti in pratica. L'idea è di Zalando, ce la siamo fatta raccontare dal Country Manager Italia Giuseppe Tamola. Ecco, immaginiamo di camminare per strada e vedere una giacca piuttosto che una scarpa che ci piace, ci interessa, noi possiamo fare una foto attraverso l'app di Zalando ed effettivamente c'è una connessione tra l'immagine e il catalogo di Zalando e quindi in praticamente due click sono dalla foto alla finalizzazione dell'acquisto. Questo può essere fatto, diciamo, real time, se sono sono per strada, vedo una vetrina che mi interessa. Può essere fatto chiaramente anche se sto sfogliando un magazine e la mia star o la mia celebrity preferita ha questo abito che anch'io voglio, e riconosce tendenzialmente, è un'app che da un punto di vista operativo riconosce pattern, colori e forme. Quindi ci sono anche usi un pochino più svariati, ad esempio vado a un matrimonio con la mia ragazza e voglio la cravatta che si abbini al vestito della mia ragazza, faccio una foto al tessuto del vestito della mia ragazza e poi filtro per cravatte. Quindi molto diciamo molto intuitivo, chiaramente una certa complessità tecnologica alle spalle. Nei paesi dove l'avete già testata, che tipo di risultati ha dato? Allora, l'abbiamo lanciato inizialmente in Germania, vediamo sicuramente livelli di engagement molto interessanti, le persone lo utilizzano ed effettivamente accelera di molto il processo d'acquisto e quindi sia il numero di click che in tempo speso sul sito sono tutti KPI che vediamo migliorare in Germania. Ora vedremo per l'Italia effettivamente quali saranno i risultati e ci sarà sicuramente anche una fase di ottimizzazione specifico sulla feature italiana. Essere e avere. faccio qui? Va bene! È un gatto spaziale! Andiamo! Aspetta! Non credi sia ora di andare a dormire? Io con te non mi stanco mai! Focus sui trend. Ve lo ricordate Doraemon? Una vecchia serie di 20 anni fa tratta da un manga giapponese. Gli episodi storici non smettono di avere successo. Ora al cinema sta per uscire anche il film in 3D. È la storia di un gatto robot che viene dal futuro e usa oggetti tecnologici super avanzati. Ci è sembrato il modo migliore per introdurre il tema del focus sui trend di questa settimana. Parliamo di Lively Kids, un nucleo generazionale che il mondo dei consumi ora approccia in modo totalmente diverso rispetto al passato. Ne parliamo con Isabella Guaitoli di Future Concept Lab. Ben ritrovata Isabella. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, innanzitutto chi sono i Lively Kids? Definiamoli subito dal punto di vista dell'età. Ecco, diciamo che i Lively Kids sono quei bambini che hanno un'età compresa circa tra i 4 e gli 8 anni. Sono il 5% dell'attuale popolazione europea, più o meno 26 milioni e mezzo, e in Italia sono quasi 3 milioni. Non tanti, diciamo, visto che siamo uno dei paesi con il tasso più alto di invecchiamento al mondo. Ed è probabilmente per questo anche che per questo loro essere in pochi che sono al centro delle attenzioni dei genitori e di ben 4 nonni. E questo fa dei Lively Kids dei soggetti molto interessanti che hanno un ruolo sempre più centrale sicuramente nelle relazioni familiari, ma anche poi nel mondo della società dentro alla quale loro entrano, si inseriscono sempre più precocemente. Ecco, l'innovazione digitale, lo sappiamo, insomma, su questo nucleo generazionale ha una presa incredibile. Primo oggetto di consumo da sempre per i bambini di questa età, i giocattoli. In relazione a quello che abbiamo appena detto, come stanno cambiando i giocattoli? Sicuramente sappiamo tutti, le app e gli schermi dei tablet sono a quest'età già degli strumenti di gioco molto graditi ai bambini, che spesso sono già bravi nel cercare, nel trovare online le risposte a quelle che sono le loro necessità di conoscenza pratica. Faccio un esempio, i video tutorials, non so, per creare i braccialetti dei piccoli elastici che vanno tanto di moda in questo periodo per le bambine. E poi sicuramente videogiochi, non è un caso che nell'edizione che si è appena conclusa della Milan Games Week sui videogiochi appunto è stata aperta con grande successo una nuova area proprio per gli under 12, quindi per i bambini. Anche i giochi tradizionali si rinnovano, sempre tenendo presente questo avvento del digitale anche dal punto di vista visivo. Per esempio, Photo Pixel Art è un gioco che è il più classico dei giochi proposti da Quercetti, storica azienda appunto di giochi educativi italiana di Torino, che è quello dei chiodini. Si rinnova come? Ispirandosi appunto al mondo dei pixel. Photo Pixel Art cosa fa? È un gioco assolutamente analogico, quindi normale, tradizionale, diciamo, che consente però di riprodurre i ritratti e le fotografie che si scelgono, quindi dei propri cari, degli amici, degli animaletti domestici, a livello di immagine creata con i chiodini. Si può andare sul sito che Quercetti ha preparato ad hoc, caricare l'immagine, la foto che si desidera poi avere come schema, che ci viene mandato in formato PDF da stampare a casa e poi da seguire per la realizzazione di questa, che diventa una propria immagine, un proprio quadretto, ma molto bello a livello appunto visivo. Un esempio di grande successo è sicuramente Kano, che è un kit per bambini che si ispira un po' ai Lego, perché è completo di tutto quello che serve per assemblare da soli un computer, che è anche programmabile in modo semplice e visuale grazie a un codice open source. È un kit disegnato in Inghilterra che comprende tra l'altro anche le istruzioni poi per imparare a creare dei semplici giochi e dei programmi di scrittura sul computerino stesso. Vi dico solo che era stato lanciato sulla piattaforma di crowdfunding Kickstarter con l'obiettivo di raccogliere $100,000 in finanziamenti e ne ha raccolti invece 1,5 milioni. Nei giocattoli arriva la punta più avanzata dell'innovazione digitale, parlo della cosiddetta Internet of Things e anche della stampa 3D, anche lì abbiamo degli esempi proprio di prodotto. Ci sono degli esempi molto molto interessanti che hanno la capacità di amplificare la dimensione di interazione che le persone, i bambini in particolare, hanno con gli oggetti, ma anche la loro capacità immaginifica. Moff Band, per esempio, che arriva dal Giappone, il fondatore di Tokyo, è un braccialetto intelligente. Uno smart band. Che cosa fa questo smart band? Una volta indossato, legge, grazie a dei sensori di movimento, i movimenti del braccio e produce di conseguenza degli effetti sonori che danno realtà a quello che in realtà è un mondo immaginario di ogni bambino. Grazie infatti a un collegamento Bluetooth con lo smartphone o anche il tablet, Moff ti dà la possibilità di scegliere, grazie ad un'app collegata, diversi effetti sonori. Si può decidere di suonare un tamburo, una chitarra, di giocare a tennis, di fare un combattimento con le spade laser, e lo si fa però a livello immaginario. Qualunque oggetto che si prende in mano avrà il suono del tamburo o della chitarra. Un altro esempio interessante arriva da McDonald's, che sta sperimentando a Singapore l'Happy Table. Cos'è l'Happy Table? Beh, è un semplice e normale tavolo del fast food dei punti vendita McDonald's, al quale però sono stati attaccati nella parte di sotto del tavolo degli adesivi che hanno all'interno dei sensori con una tecnologia molto semplice, la Near Field Communication, che possono però comunicare con gli smartphone che ci sono nelle vicinanze e creare così dei giochi interagendo con il tavolo stesso, che si trasforma per esempio in un percorso automobilistico dove l'auto da muovere è proprio lo smartphone che si sposta seguendo il percorso del tavolo. Per concludere, Isabella, ti chiederei di fare una riflessione anche sugli eventi, sulle occasioni di intrattenimento per i Lively Kids. Beh, una considerazione importante da fare comunque è che i Lively Kids, per quanto proiettati verso il futuro e curiosi e interessatissimi alle tecnologie, per loro l'esperienza di creatività e di scoperta deve essere condivisa, deve esserci un'interazione reale, creativa, possibilmente anche progettuale tra i bambini e altre figure che possono essere di genitori o appunto altri educatori adulti, e questo fa sì che si moltiplichino i luoghi dedicati appunto ai laboratori e alla condivisione di esperienze di gioco e di apprendimento. Un caso che mette insieme questo aspetto fondamentale della vita dei Lively Kids con l'innovazione tecnologica sarà sicuramente il Children Park, che farà parte di Expo 2015. È un'area di gioco e di scoperta dedicata alle famiglie, in particolare ai bambini, per capire cosa significa sostenibilità del pianeta. È stato progettato dal team di Reggio Children ed è chiamato, il concetto alla base del Children Park, Ring Around the Planet, Ring Around the Future, richiamando quindi l'idea del giro tondo, ma contemporaneamente il fatto che ognuno è corresponsabile del destino dell'altro in termini di sostenibilità del pianeta. Il consumautore. Ci ha raggiunto in studio, come sempre, per la riflessione finale Francesco Morace. Ciao Francesco. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Stiamo raccontando le piccole, grandi rivoluzioni in atto nel mondo dei consumi, dettate dalla crisi, ma non sempre e non solo. Sono rivoluzioni che stanno radicalmente cambiando l'atteggiamento del consumatore, le sue abitudini, le sue valutazioni, trasformandolo in un consumautore, appunto. Francesco, oggi di cosa ci parli? Ma oggi vorrei parlarvi del grande ritorno al territorio, che però non è la difesa del territorio, è capire che esistono dei talenti, no? Un genius loci, un talento del luogo che bisogna davvero nuovamente interpretare, tanto che moltissime aziende stanno, ad esempio, tornando in Italia, quelle che delocalizzavano oggi, soprattutto le aziende che lavorano sulle grandi qualità, hanno capito che il loro territorio è la base del loro successo. proprio il reshoring è uno dei temi emergenti del dibattito economico. Riportare dunque a casa le produzioni delocalizzate negli anni è un fenomeno per ora contenuto, che però viene identificato come il segnale di un'inversione di tendenza, soprattutto per le imprese di eccellenza, per le aziende che fanno prodotti di eccellenza. Assolutamente, da questo punto di vista l'italianità davvero è una base su cui continuare a lavorare, ma questo riguarda anche un nuovo rapporto con la tecnologia digitale. Un tempo si pensava a una delocalizzazione anche della nostra esperienza, quindi tutto online, mancanza di rapporto fisico diretto con le altre persone, col territorio. Diciamo che il mondo della cybercultura oggi invece è in grande crisi e si usa la tecnologia digitale per amplificare i valori del territorio. Questo nel turismo avviene, ci sono le app che ti raccontano di quel monumento che però tu stai vivendo direttamente nella realtà. Che cosa può significare per un'azienda tornare a investire vicino a casa, per così dire? Questo è molto importante, e ci sono aziende italiane illuminate che hanno capito che investire sul territorio diciamo di prossimità è la base del loro successo. In particolare un esempio davvero illuminato, Loccioni, che è un'azienda marchigiana, che ha pubblicato proprio in questi mesi un libro che si chiama 2 chilometri di futuro, che è tutto dedicato al territorio accanto all'azienda. Grazie a Francesco Moracci e grazie a Paolo Corleone in regia. Essere Avere torna domenica prossima alle 15. Segnatevi questo nuovo appuntamento in agenda, veniteci a trovare sulla nostra pagina Facebook per tutti i contributi aggiuntivi. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.